Lombardia messa in zona rossa è dettato dalla necessità del governo di creare spazio sanitario nella regione che alla fine ha più spazio per poter accogliere in Lombardia persone da altre regioni quando andranno in crisi. Bisognerebbe anche dire che a Bergamo stanno arrivando giustamente tanti da Milano, perché noi bergamaschi qua non è poi così tragica la situazione, quindi bisognerebbe tenerne conto, però ci chiudono in casa. I dati, caro Spezia, non sono solo sbagliati. Certe regioni non hanno le persone che tracciano i contatti, pertanto quei dati lì sono tutti falsati. Chi non è in grado di fare il proprio mestiere con competenza e professionalità viene premiato. Le regioni che invece hanno un servizio che funziona e tracciano sono penalizzate. Persone che non sanno nemmeno contare le persone che ci sono in terapia intensiva, covidizzate e non covidizzate. Ma se partiamo già da questo, che non siamo in grado di fare questa conta esatta, mi spieghi poi come possiamo dividere le regioni in zone più o meno pericolose e di conseguenza risolvere i problemi? E poi c'è qualcuno che scherza via WhatsApp e dice: finalmente hanno fatto diventare la Lombardia una zona rossa, hasta la vittoria sempre. Ma dai, ma dai, ma dai. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, danno un po' di risposte, un po' di idee su quello che avete detto. Io non so se l'idea sia, caro ascoltatore, lo dico, di un lockdown in Lombardia per creare spazio sanitario per altre regioni. Concordo invece abbastanza con l'ascoltatore che parlava da Bergamo, che non lo sottolinea esplicitamente, però qua secondo me c'è un grande tema delle differenze all'interno della singola regione. Un altro ascoltatore prima ha scritto dalla Valchiavenna e dice: ma vi pare normale che noi in Valchiavenna dobbiamo rispettare le stesse regole che vigono a Milano, dove la condizione è molto più grave? Stessa cosa vale per Bergamo e Brescia, che dopo la buriana dolorosa e terribile di marzo e di aprile adesso si trovano in una condizione sicuramente migliore. Forse una suddivisione provinciale sarebbe stata un po' più corretta. E là però veniamo all'altro grande tema, quello che sottolineavano gli altri ascoltatori, ossia la questione dei dati e della pulizia dei dati. Allora, tutte le regioni sono in grado efficacemente di fornire dei dati provincia per provincia che indichino e siano paragonabili l'uno con l'altro, provincia per provincia, dandoci un'idea precisa di cosa succede in ogni provincia per poter decidere correttamente? E io questo non lo so, sinceramente. E il tracciamento, lo dico all'ascoltatrice, è solamente uno dei problemi, non l'unico, non l'unico. L'altro giorno ha denunciato, se non vado errato, una consigliera regionale della Campania del Movimento 5 Stelle. Da un giorno all'altro sono sparite 52 persone dalle terapie intensive della Campania. E dove sono finite? Hanno fatto i conti sbagliati come Spirlì? Cioè ce l'avevano in terapia intensiva, contati come terapia intensiva ed erano in subintensiva? Boh! È veramente, se ci pensate, è veramente paradossale. Come, se devo dire la verità, trovo un po' paradossale che questa decisione sia stata presa di fatto, scatti da oggi tutto questo, quando oggi arriva il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità con i nuovi dati che vengono raccolti, mi pare, ogni paio di settimane, che vengono messi a sistema ogni paio di settimane. Ma aspetta il venerdì, vedi il venerdì cosa ti dicono i dati e su quella base decidi se mettere zona gialla, zona arancione o zona rossa. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto, poi magari sbaglio, per carità, ne parleremo, vi ripeto, con Carlo Lavecchia più avanti, che è epidemiologo alla Statale di Milano e che si occupa molto di queste cose, ci può dare anche qualche ragguaglio su questi 21 indici sui quali si calcola e si prendono decisioni. Per questo, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, come ben sapete, è il venerdì 6 novembre, il 6 novembre, al microfono sempre Simone Spezia, e i titoli dei giornali, come potete ben immaginare, sono in gran parte dedicati esattamente alla questione Covid. Giornali un po' poveri del resto, se si fa eccezione ovviamente per gli Stati Uniti, per la questione degli Stati Uniti. Virus in corsa si stringe, il titolo di Avvenire. Quanto ci costa il nuovo lockdown, nel Quotidiano Nazionale? I contagi e i morti salgano ancora, zone rosse e lite, il Corriere della Sera. La Repubblica lo chiama il tricolore della discordia, questo giallo, arancione, rosso. Il Giornale dice tutti contro tutti, caos, Covid, il nuovo DPCM spacca l'Italia. La Stampa, rivolta dei governatori, e Speranza che gli dice siete degli irresponsabili. Il Fatto Quotidiano se la prende con Salvini, sarà con noi, tra l'altro, Matteo Salvini alle 8.45. Salvini come Trump, vuole il riconteggio. Biden apre sugli Stati Uniti, prima di andare al Messaggero, che è uno dei pochi che apre sugli Stati Uniti, chiudiamo il capitolo Covid. Il governo odia il Nord, è il titolo di Libero. Chiudono tutto ma non pagano mai, è il titolo della Verità. Il Manifesto e il Messaggero si dedicano agli Stati Uniti. Showdown è il titolo del Manifesto. Biden vince Roma, ora calma, è il titolo del Messaggero. Per quanto riguarda invece il Sole 24 Ore, l'apertura è su un problema italiano storico, che è quello della produttività. L'Italia scivola sotto zero, dopo anni di bassa crescita la produttività in Italia arretra, ci fa sapere il Sole 24 Ore, che però ci racconta qualcosa anche sui dati, perché il titolo di centro pagina, ci arriveremo tra poco, l'Istituto Superiore di Sanità dice che i dati sui ricoveri campani sono inattendibili, ma proprio così, nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e così siamo, Non so che dire. Ma qualcosa ci sarebbe da dire, però iniziamo da Massimo Gramellini. Va. Perché c'è una cosa che pochi hanno tenuto in considerazione, è rimasta un po' sotto traccia in queste ore, ed è questa storia per la quale nelle zone rosse, come per esempio la Lombardia, come per esempio il Piemonte, ci sarà didattica a distanza per i bambini a partire dalla prima media. Al di là della questione legale, e ve la metto là perché chi è padre o madre questa cosa la sa, che sotto i 14 anni lasciare un bambino a casa da solo è un reato penale, è abbandono di minore, e quindi che cosa dobbiamo fare? Forse ci vorrebbe una norma ad hoc. Al di là di questo c'è la questione, se vogliamo definirla così, culturale, e la mette così Massimo Gramellini sul suo caffè sul Corriere della Sera: la fine dei bamboccioni. Tra gli effetti neanche tanto collaterali delle nuove restrizioni governative c'è l'abbassamento vertiginoso dell'età adulta, dai 30 anni abbondanti ai 12. Si è deciso che un ragazzino di seconda media sia già abbastanza grande per restare a casa da solo, in compagnia, speriamo non in balia, di un computer. Una scelta forse inevitabile per consentire ai genitori che hanno ancora un lavoro di conservarlo, ma certo non priva di conseguenze. La giovinezza, intesa come condivisione di piaceri senza responsabilità, è infatti una conquista recente. Il benessere economico l'ha prolungata e il successivo malessere l'ha cristallizzata, costringendo a una vita di dipendenze anche i trentenni, che avrebbero avuto voglia di tutt'altro. Contrariamente a quel che suppone il luogo comune, non ho mai conosciuto un bamboccione felice, scrive Gramellini. Se il tempo degli adulti è la scoperta del limite e della solitudine, la giovinezza incarna il suo esatto contrario. È la movida, il calcetto con gli amici, l'uscita col ragazzo o con la ragazza. Peter Pan non è mai stato un eremita. Ora invece stiamo costringendo dei ragazzini di 12 anni a festeggiare l'ingresso nell'età degli ormoni, barricandosi tra le mura domestiche, a governare se stessi. Nel caso nel quale l'emergenza dovesse perdurare, potremmo trovarci per caso una generazione di adulti precocissimi. Considerato il tasso di fanciullaggine di chi comanda, per noi potrebbe persino non essere un male. Ma per loro, scrive Gramellini, così sul tema dei dodicenni che nelle zone rosse dovranno rimanere a casa. Allora, altre piccole storie da... da Covid. Per il momento rimaniamo su questo. E andiamo con, come sempre, qualcosa di diverso. Qua poi al quadro generale ci arriveremo dopo. È una storia non male che racconta Cristina Bassi da Milano. E qua, ragazzi, è la cecità della burocrazia che colpisce inesorabile, anche se per fortuna per poche cifre. Chiude il bar per il lockdown, viene multato perché non l'ha segnalato. Succede appunto a Milano. Chissà se ci sono altri casi di questo genere. Chiuso per lockdown, poi per crisi e in più multato per aver comunicato in ritardo la sospensione dell'attività del proprio bar. Solo 68 euro, ci mancherebbe, 68,33 per essere esatti, ma che hanno il sapore amaro di una beffa che si aggiunge agli ingenti danni economici subiti in questi mesi e non ancora alle spalle. Una follia, un provvedimento vessatorio verso chi sta già pagando un prezzo altissimo alla pandemia, denuncia Pino Scalise, titolare di un locale nel centro di Milano che si trova di fronte a una nota discoteca anch'essa rimasta chiusa. Ha chiuso il bar in osservanza al DPCM, lo hanno sanzionato appunto per non aver comunicato la chiusura entro i termini stabiliti. Questo paese mi fa diventare pazzo. E non ne faccio certo una questione di soldi, dice, è piuttosto un problema politico. Mi chiedo se sia accettabile che un imprenditore debba chiudere per legge contro la propria volontà e debba per giunta essere punito con una sanzione per non aver comunicato la chiusura che tra l'altro la legge stessa ti ha imposto. Eh sì, all'aria decisamente vessatoria questa questione. Visto che abbiamo ancora un attimo, no, facciamo una cosa, prendiamoci la pausa e poi andiamo su questa storia che ha il Sole 24 Ore, che con Marzio Bartoloni e Sara Monaci ci dice questa anche qua è veramente da non saper cosa dire. La Campania ha dati inattendibili e però è là in zona gialla. Tra un attimo. Mattino. I dati vengono calcolati come si fanno ricerche di mercato, si fa uscire quello che si vuole ottenere a tutti i costi. Ah, come vorrei sentire la nostra destra, i nostri leader di destra, dire una parolina su quel celebratissimo stratega elettorale Steve Bannon, che hanno celebrato in vita dei loro congressi. Bannon, che come vi dicevo prima ha detto in questo suo podcast notturno, cioè notturno, serale per gli Stati Uniti, ha detto che è quello che vorrebbe vedere lui è Anthony Fauci e il capo dell'FBI decapitati e con le teste infilate nei cancelli della Casa Bianca. Come monito. Mi piacete tantissimo quando correggete gli errori che faccio, perché mi è utile. E dunque, ho detto prima, parlando del fatto di lasciare i bambini, gli under 14, da soli a casa, ho usato l'espressione reato penale, che è chiaramente un errore, perché il reato è sempre penale. Due o tre di voi me l'hanno fatto notare, giusto così, correggo e chiedo scusa per l'errore. I numeri, i dati, come dice l'ascoltatrice, si fa uscire quello che si vuole. No, sinceramente non credo, meglio non lo so, in tutta sincerità, non lo so. Però, un minimo di sospetto a vedere questo pezzo del Sole 24 Ore, firmato da Marzio Bartoloni e Sara Monaci, a pagina 4, un minimo di sospetto mi viene. Perché? Perché appunto il racconto è di dati inattendibili in arrivo dalla Campania. Posto naturalmente, come fa notare qualche altro ascoltatore, la Campania in realtà vorrebbe la zona rossa, ma non riesce ad averla. Io non so quanto poi dietro questo ci sia un gioco politico, ve lo dico sinceramente, però questo è Marzio Bartoloni e Sara Monaci. Campania solo gialla perché salvata dall'RT più basso, a 1,29, sceso grazie anche al lockdown soft anticipato dal governatore De Luca, che a metà ottobre ha chiuso le scuole, stop confermato ieri fino al 14 novembre, ma anche da dati incompleti e definiti in una nota dallo stesso Istituto Superiore della Sanità non attendibili, cioè che non fotografano correttamente la realtà, come ad esempio la pressione sugli ospedali, che invece da giorni si avvicina ai massimi livelli. Lombardia rossa invece perché condannata dalla difficoltà a tracciare i casi, dal boom di ricoveri ormai sopra le soglie di allerta e dalla velocità del contagio che è ancora sopra l'1,5. Una discesa della quale però non si è tenuto conto al momento della scelta del colore in cui collocare il territorio nazionale, perché i dati della Lombardia sono in discesa, il territorio regionale, visto che i dati presi in considerazione sono quelli risalenti al report del 25 ottobre. Sono passati 10 giorni in cui si fotografa l'andamento della settimana precedente. 25 ottobre, settimana precedente, quindi sono i dati addirittura della metà di ottobre, quelli sui quali si è presa la decisione adesso. Si tratta quindi di numeri che anche per molti tecnici lombardi, non solo per i politici di maggioranza, risultano superati, ci fanno sapere appunto Marzio Bartoloni e Sara Monaci. Si aggiunge infine, sempre per la Lombardia, la constatazione che alcuni territori, Brescia e Bergamo in particolare, non seguono il trend regionale, avendo un basso livello di rischio. Pertanto, queste zone già duramente colpite la scorsa primavera dal Covid, le regole da zona rossa potrebbero sembrare eccessive. E in effetti lo sembrano, lo testimoniano un po' di giornali che raccontano qualche tensione da parte dei sindaci di quell'area, tensione che però tengono un po' più bassa perché sono alla fin fine, ma è anche una questione politica, sono sindaci di centrosinistra. E quindi probabilmente anche questo elemento politico in qualche modo giocherà. L'impressione è tutta, ve lo dico, di una sorta di battaglia tra nord e sud che si sta scatenando, oltre che di una battaglia politica, ancora una volta. Tanto che il quotidiano Libero titola «Il governo odia il Nord» e affida l'editoriale di prima pagina a Vittorio Feltri, il quale molto brutalmente dice che Giuseppe Conte, secondo lui, è peggio di Benito Mussolini. Bisogna riconoscere a Giuseppe Conte la capacità di stordire gli italiani come faceva il Duce, il quale affermava una cosa in favore della patria che poi tracimava in guerra, mandando i nostri soldati a combattere in Russia, coperta di neve e di ghiaccio, con le scarpe di cartone e i fucili di latta. La diversità tra il premier e il dittatore fascista consiste nel fatto che il primo ci rompe le scatole affidando al Covid il compito di ucciderci, mentre il secondo ci ammazzava per compiacere Hitler. Il risultato non cambia, farà discutere, direi, questo editoriale di Vittorio Feltri, questo commento di Vittorio Feltri, il quale appunto aggiunge che le scelte del governo arrivano perché ha in antipatia il Nord. Se volete un'opinione dall'altra parte, quindi di ampio sostegno al Presidente del Consiglio e invece di attacco pesante ai governatori e al leader della Lega Salvini, è dal Fatto Quotidiano che dovete pescare, il quale addirittura con l'editoriale del direttore Marco Travaglio in un titolo, il titolo è Pagliacciata sediziosa, dice, parla di mosse eversive delle giunte di Lombardia, Piemonte e Calabria aizzate dal mestatore Salvini, e dice: dopo queste si spera che nessuno rompa mai più le palle con le, così leggo, quindi non mi accusate poi di volgarità, con le prediche al governo sul dialogo con le opposizioni, almeno finché le opposizioni non saranno qualcosa di diverso dal, leggo sempre qua, cazzaro sedizioso. Il riferimento è a Matteo Salvini. Ormai anche il leghista più sfegatato dovrebbe aver capito che la salute e la vita sono cose troppo serie per affidarle a una banda di spostati che si fanno chiamare governatori e non riescono a governare neppure il ballatoio di casa loro. Hanno voglia Conte, Speranza, Brusaferro e gli altri con la testa sul collo a spiegare che la divisione dell'Italia in zone rosse, arancioni e gialle non è una pagella politica per punire le giunte di destra e premiare quelle di sinistra. Insomma, vi ho letto l'attacco di Travaglio, così come l'attacco ai Feltri, per darvi l'idea di due posizioni, direi, radicalissimamente diverse su come si è mosso il governo e su come si stanno muovendo i presidenti di regione. A proposito di questo, a me sembra chiaro che tutta questa impostazione che fin da marzo si sta giocando sul confronto tra centro e periferia, per così dire, quindi tra lo Stato centrale e le regioni, potesse portare a una riflessione sul federalismo e forse addirittura ad un'ipotesi di riforma. Ce lo raccontano bene Emilia Patta, canta Emanuela Perrone in un pezzo a doppia firma sul Sole 24 Ore, perché ieri si è svolto questo momento che è mitologico della politica italiana, che è la verifica di maggioranza, ossia i leader si sono visti, si sono incontrati per ragionare se fare il rimpasto, su come si può andare avanti, eccetera eccetera. Il Presidente del Consiglio ha visto Zingaretti, Crimi, Renzi e Speranza. Che prospettiva si apre? Si apre la prospettiva di una riforma costituzionale per rendere più efficace il sistema. È stato questo il messaggio che ha mandato Conte, spazzando via l'ipotesi di un rimpasto, ed è una riforma in arrivo, ipoteticamente una riforma del titolo quinto della Costituzione. Il tema è rivedere quella riforma del 2001, la ricorderete, del titolo quinto della Costituzione, che divideva le materie tra Stato e Regioni e aveva una serie di materie concorrenti che tanto hanno dato da fare alla Consulta negli ultimi anni. L'intento è quello di riportare al centro molte delle competenze ora in carico alle regioni, a cominciare dalla sanità. Questa sarebbe l'idea, e capite che questa questione aprirà un discreto, anche qua, una discreta discussione, un discreto dibattito, perché anche qua le differenze sono forti. Abbiamo alcune regioni che sono in aperta richiesta di una maggiore autonomia anche sul fronte sanitario e sul fronte fiscale. Penso al Veneto, tanto per fare un esempio, il quale è in una condizione pandemica sicuramente migliore, per esempio, della Lombardia, e però arriva questa proposta. Con Lina Palmerini che ci racconta nel suo Politica 2.0, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 10, che c'è questa spallata di Salvini che ricomincia dalla Lombardia. Cioè, l'idea è proprio prendere la questione lombarda per poi riprovare a dare una spallata al governo. Il traffico. Ve le immaginate voi una regola interregionale dove il comune A e il comune C sono zone rosse, ma il comune B no, perché ha meno contagiati, però per andare da A a C devi passare per B? Cioè, diventerebbe quasi ingestibile. Qui c'è gente ancora che non ha capito se può andare a fare la spesa o no in Lombardia con questo decreto, figuriamoci se ci fossero stati dei decreti del genere. Chiamo dalla Bassa Valtellina. L'unica soluzione qui è chiudere le province. Cioè, noi qui siamo imboscati nei boschi, scusa il gioco di parole. Ma qua non c'è nessun problema. Basta bloccare le province. Noi siamo al sicuro, i casi ci sono, ma cioè, siamo una zona rossa. Qua siamo ai livelli della Campania, per tutti tranquilli. Ironia, finale. Siamo ai livelli della Campania. Pensando, io quando penso a un luogo diverso da Milano penso sempre alla Valtellina, esattamente, la Valtellina, alla Valchiavenna, quelle aree là. Così come ieri il presidente della regione toscana, Giani, citava l'esempio del Monte Amiata, diceva, certo, il Monte Amiata è diverso da Firenze. Eh sì. Una riflessione sul metterla su base provinciale, non su base comunale, lo dico all'ascoltatore che diceva prima, non parlavo di base comunale, parlavo di base provinciale, forse in certi casi sarebbe più corretto. Del resto ci avevano detto faremo dei lockdown locali, però io questi lockdown locali ancora non li ho visti, cioè se ancora procediamo per regioni è un altro conto. Va bene. Se volete un po' di scontro nord-sud ancora su altri fronti o forse parzialmente correlati alla questione della pandemia, vabbè, pescatevi questa pagina del Messaggero che sta conducendo ormai da mesi una battaglia che nel bene e nel male possiamo definire meridionalista, sul tema di quanti soldi vanno al nord e quanti soldi vanno al sud. E oggi con Andrea Bassi se la prende a pagina 11 contro i soldi dati a Milano per le Olimpiadi del 2026, le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. un miliardo di euro sull'Unghia mentre il resto del paese arranca tra pandemia e crisi economica. C'è un pezzetto d'Italia che può viaggiare su un binario parallelo più veloce, se si vuole in un'altra classe, migliore ovviamente. Basta prendere le parole spese dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che con un entusiasmo che stride con il momento ha celebrato la sua decisione di firmare il decreto che finanzia con il suddetto miliardo le infrastrutture lombarde in attesa delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina. Io non so, dite voi, però io non ci vedo un granché di male. È chiaramente una partita diversa rispetto a quella pandemica e un po' più a lungo termine. Allora, ne abbiamo parlato ieri, adesso magari poi ci torniamo anche con Paolo Mieli, perché poi è corretto dare, no, entrambi i punti di vista, entrambe le posizioni, soprattutto quando si parla di un'inchiesta penale, così cambiamo decisamente argomento. C'è la vicenda dell'avvocato Piero Longo, ne abbiamo accennato ieri. L'avvocato Piero Longo, ex avvocato di Silvio Berlusconi, come sapete, che era stato picchiato fuori, se non vado errato, fuori dal suo studio, era stato malmenato in un'azione che sembrava misteriosa. Poi sono arrivate le accuse è che avrebbe avuto rapporti sessuali, avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni che è la figlia della sua compagna di allora. Ebbene, ieri è comparso davanti ai pubblici ministeri e ha spiegato quella che considera l'assoluta inconsistenza e infondatezza di ogni ipotetico illecito, difeso tra l'altro da un altro legale di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, collega di sempre. Si tratta in realtà di un atto dovuto legato a dichiarazioni derelato rilasciate dai suoi aggressori. Cioè, i suoi aggressori hanno detto: l'abbiamo menato per questo, l'abbiamo picchiato per questo motivo. Longo ha detto è stata aperta un'indagine perché ci sono queste dichiarazioni, ed è tutto naturalmente ancora da accertare, fa sapere Ghedini. Allora, è aperta, direi, la discussione su la prossima 007. Trovate pagine infinite sui quotidiani su questo tema, perché la prossima 007, perché sarà una donna, e sarà una donna nera. Quindi cambia radicalmente la figura dell'agente segreto immaginata da Ian Fleming, che del resto la immaginò qualche anno fa, e però il dibattito è aperto. Se volete un pezzo un po' più neutro lo trovate sul Messaggero. Siamo a pagina 16 con Gloria Satta, la rivoluzione James Bond, il nuovo 007 è una donna. Si tratta di Lashana Lynch, che interpreta l'agente segreto nel film No Time to Die, che sarà in uscita nel 2021. E si chiedono nel titolo del Messaggero, si chiede sarà per sempre? Il nuovo 007 è una donna, la pelle nera, ma sarà per sempre? La bomba, sganciata da un'intervista rilasciata dalla Shana Lynch, protagonista femminile accanto a Daniel Craig del 25esimo film della saga di James Bond, ha scatenato un putiferio. Proprio mentre questo nuovo colossal è stato rimandato due volte a causa della pandemia, i fan britannici hanno lanciato una colletta via internet per ottenerne i diritti. Traguardo prefissato a 607 milioni di sterline, anche se adesso ne sono state raccolte solo 830, un po' pochino, francamente. La Shana ha accreditato la prospettiva del cambiamento epocale. Mi sento parte di una rivoluzione, ci stiamo allontanando dalla mascolinità tossica, ha dichiarato. Sta accadendo perché le donne sono aperte ed esigenti, alzano la voce e denunciano comportamenti scorretti. E malgrado gli interrogativi sul futuro a favore dell'ipotesi di uno 007 femmina da qui all'eternità, gioca il fatto che il cinema non è mai stato così pronto a recepire gli umori dell'opinione pubblica e ancor più il diktat del pensiero politicamente corretto, scrive Gloria Satta. Molto più duro, come prevedibile, se volete, un giornale come La Verità, che su questi temi si scaglia sempre durissimo. Il pezzo lo firma Gabriele Gambini, il titolo va sotto la testatina pensiero debole, e il titolo dice di fatto già tutto. La gente diventa una donna di colore, hanno preso la licenza di uccidere 007. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli, il consueto appuntamento con lui, sarà con noi poi il professor Lavecchi, epidemiologo della Statale di Milano, così ci facciamo spiegare un po' questi 21 parametri sui quali si è deciso di mettere le regioni in zona arancione, rossa, gialla, e poi sarà con noi Matteo Salvini. A tra poco.